in trasmissioni televisive del tipo di canzonissima, il guitto di turno pagato per farlo terminava le poche e povere cose che aveva da dire con l'invito, l'invito uno etrino: votate, votate, votate. Ripetendolo 3 volte, pensava lui o chi per lui di risultare più persuasivo. Ogni voto rappresentava un biglietto di lotteria venduto e non era difficile scorgervi, anche per la coincidenza del vocabolo, lo sgomentevole analogo della nostra democrazia fasulla, in cui, come in ogni lotteria, a vincere le elezioni o ad accaparrarsi il premio è sempre e comunque colui che le organizza. Mi sono imbattuto ancora un paio di volte più di recente nella ripetizione del medesimo vocabolo per 3 volte. La prima è ancora in un invito: telefonate, telefonate, telefonate, che è una sorta, diciamo, di parente povero del votate, votate, votate, quella versione minore della forma di governo che potremmo chiamare democrazia telefonica. La ragione moderna sembra che stia dalla parte di chi telefona. La seconda volta non era un invito diretto, ma una constatazione stupefatta. Una signorina garantiva che assorbe, assorbe, assorbe, e implicitamente, superlativizzando il verbo, invitava all'acquisto di una merce dallo statuto ontologico tanto metafisico da non poter mai essere nominata esplicitamente. Segni di persistenza vittoriana che ben si correlano allo sfruttamento intensivo del corpo femminile fino all'ultimo poro. E il galateo linguistico omette di designare ciò che invece è sfacciatamente offerto alla vista. Questi casi di triplice ripetizione del medesimo vocabolo, si sarà notato, sono sintaticamente molto simili, appartengono al repertorio dell'enfasi e come tali implicano ritmi rapidi e incalzanti. Nessuna pausa tra parola e parola, perché la pausa potrebbe essere riempita da altri pensieri, magari non tutti desiderati da chi sta parlando, e la superlativizzazione cadrebbe irrimediabilmente. Tutto ciò va tenuto presente allorquando, come può capitare in questi giorni, ci si soffermi innanzi ad un precoce manifesto elettorale sul cui fondo rosso variegato campeggia la scritta socialisti, virgola, socialisti, virgola, socialisti, punto, virgola, virgola, punto. Molto diverso da dire socialisti, socialisti, socialisti, che più o meno potrebbe designare, che so, dei socialisti di quelli veri veri, o dei fior di socialisti, o ancora il fior fiore dei medesimi. No, qui no, le virgole inducono alle pause, il punto fermo conclusivo parrebbe seguire un'asserzione di quelle pesanti. Qui è chiaro che si evita la facile retorica imbonitoria, qui è chiaro che si ha a che fare con persone che sanno il fatto loro. Tuttavia, il fatto loro si guardano bene dal dirlo. Lo lasciano all'immaginazione e alla cultura dell'interlocutore, neppure mettono sulla buona strada della corretta interpretazione grammaticale 3 nomi o 3 aggettivi. Scelta a piacere. Ma se si scelgono i nomi, viene da aggiungervi subito gli aggettivi, e se si scelgono gli aggettivi, non migliorandoli molto le cose, temo, viene da aggiungervi subito dei bei nomi. Dietro ciascuno di quei nomi o di aggettivi ci sono comunque pacchi di verbi, di altri nomi, di altri aggettivi, magari anche qualche avverbio, qualche congiunzione. C'è tutta una storia, insomma, una storia che forse è meglio non dire. E questo non detto è così tanto che, provocando un effetto non certo voluto, finisce con l'incutere timore. Come minimo si tratta dell'affermazione di una presenza ribadita e tenace. E allora, più che un invito, è una minaccia. C. invece in calce al medesimo manifesto c'è una data, 13 giugno 1999, come fosse un appuntamento al quale, quand'anche ci fosse qualche dubbio sulla nostra partecipazione, loro non mancheranno per nessun motivo al mondo. Poi, onde mantenere quel ritmo ternario che tanto successo fece a ridere a Mussolini, sta scritto: laici, garantisti, riformisti. E qui non ci vuole un'aquila per accorgersi che la loro lingua batte ancora stolidamente sul medesimo incisivo cariato e dolente. Il garantismo per loro, beh, è più una necessità che una virtù, e il fatto che la frase di chiusura dica in Italia come in Europa e non invece più coerentemente all'occasione, perché pur di elezioni europee si tratterà, non in Europa come in Italia, la dice lunga sulle cautele che devono rispettare per alimentarsi. Stanno bene attenti a non dire che intendono comportarsi in Europa, nel caso ci andassero, come si sono comportati in Italia. In corso Sempione, sulla medesima staccionata, nel medesimo identico punto in cui per anni ha campeggiato la scritta Craxi ladro, qualcuno ha scritto: chi pensa non spara. Riflettevo sui destini dell'ideologia. Sulle prime avevo capito tutt'altro. Mi son detto: è un invito all'azione. Qualcuno non ne può più di questo andazzo e invita a non starci su a pensar troppo. Soltanto dopo qualche passo rimuginante sono tornato al momento che stiamo vivendo e ho capito che l'asserto doveva essere ascritto all'ottimismo di un pacifista.